4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Bentornati amici dei motori, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di 4 ruote e dintorni. In regia c'è Filippo, Roberto Rasia al microfono, vi condurranno attraverso una puntata, devo dire, molto ricca. Inizieremo con la prova della nuova Ford Ka che si affaccia sul mercato. La Ka è tanto piaciuta anche sul mercato italiano, la proverà per noi Carlo Di Giusto di 4 ruote che è già in linea. Caro Carlo, intanto buonasera e bentrovato. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Dopo di te sarà l'occasione di risentire dopo qualche anno Maurizio Caprino, un tuo ex collega, oggi in forze al Sole 24 Ore, ci parlerà dello speciale che esce in edicola martedì prossimo sugli incentivi e ne approfittiamo per conoscere tutti i segreti e le malizie per approfittare al meglio degli incentivi statali. Poi parte un'inchiesta sulle assicurazioni, sentiremo le principali assicurazioni online e in seconda battuta quelle tradizionali. Oggi partiremo con Quixa, che probabilmente è la neonata al gruppo AXA. Nella seconda parte invece Automoto Retro, un'edizione la 27esima ricca di auto e moto d'epoca, si tiene in questi due giorni, oggi e domani, al Lingotto a Torino. Sentiremo Gigi Pellissier per l'occasione, poi il nostro avvocato Lievore con il codice della strada in mano ci parlerà in questo caso invece di un argomento decisamente importante, cioè le cinture di sicurezza. Chiuderemo con l'EcoDrive, una unione di forze fra Fiat e Microsoft. Quindi puntata ricca, iniziamo subito con la descrizione di Carlo Di Giusto della nuova Ford Ka. Carlo. Sì, la nuova Ford Ka sostituisce un modello di discreto successo nato nella seconda metà degli anni 90, caratterizzato da una forma a uovo. La nuova Ford Ka invece è un'automobile apparentemente più tradizionale, con uno stile marcatamente Ford, la si riconosce insomma che è una Ford, anche se, sorpresa, è di fatto costruita in uno stabilimento Fiat e condivide tutte le componenti più importanti con la Fiat Panda, sì, e la Fiat 500. Infatti parte proprio da quel progetto la nuova Ford Ka e vedremo anche che tipo di successo potrà avere sul nostro mercato in un settore ben ben affollato. Ne parliamo tra poco, adesso è giunto il momento di conoscere anche dal punto di vista tecnico con la nostra scheda questa nuova Ka. Nata da un'alleanza strategica con il gruppo Fiat, irrompe nel concorrenziale segmento delle utilitarie la nuova Ford Ka. La base meccanica è quella di Panda e 500. Il design originale, ricercato e moderno. Rispetto alla vecchia versione, sotto al cofano sono disponibili due nuove motorizzazioni, un 1200 a benzina e un 1300 turbo diesel. Come di consueto, i prezzi di listino sono aggressivi. Ecco le caratteristiche principali. Nome: Ford Ka 1200 Titanium, 1300 TDCI Titanium. Carrozzeria: berlina 3 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 3,62 m, larghezza 1,65 m. Motore: anteriore trasversale 4 cilindri. Potenza: benzina 69 cavalli, diesel 75. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo: benzina 11.151 euro, diesel 12.401 euro. Queste erano le caratteristiche principali, avete sentito, abbiamo mantenuto questa differenza. Tu quale tipo di auto e a chi consiglieresti in questo caso, Carlo? Benzina o gasolio su quest'auto? Tendenzialmente direi benzina. Benzina perché i costi di manutenzione sono più bassi e la macchina costa un pochino meno. Perché dico questo? Perché comunque è una city car, una vettura con la quale magari non si fanno tanti chilometri e magari li si fanno tutti in città, dove sappiamo che le diesel sono lievemente più penalizzate. Direi benzina anche perché i consumi sono bassi. Certo. Rispetto alla macchina a gasolio il vantaggio è praticamente su tutti i percorsi. Ci racconti che sensazioni ti ha dato alla guida questa nuova Ford Ka? Ma è una guida che ricorda molto, molto da vicino quella della Fiat 500, addirittura per certi aspetti l'hanno resa ancora più divertente, nel senso che ha un avantreno svelto, uno sterzo pronto, rapido, un retrotreno che lo segue in maniera adeguata. È una macchina con la quale ci si può anche divertire, non è la classica utilitaria fatta per chi non ha molti soldi da spendere sull'automobile, no, direi che è una macchina completa che regala qualcosa anche sul fronte del piacere di guida. E infatti costa, l'avete sentito, da 11.000 rotti euro fino a 12.000 e qualche centinaia di euro. Allora sentiamo insieme la pagella e torniamo con i pregi e i difetti insieme a Carlo Di Giusto. Posto guida. L'impostazione è quella delle Fiat 500 e Panda. Si trova facilmente la posizione corretta, anche se alcune regolazioni sono limitate e altre mancano del tutto. Si sta bene comunque. 4 stelle. Finiture. La Ka nasce in uno degli stabilimenti Fiat più moderni ed efficienti e si vede. La macchina è costruita bene e rifinita con cura, in rapporto alla categoria e al prezzo. 4 stelle e mezzo. Comfort. Alla Ford hanno messo mano alle sospensioni, regalando alla Ka una capacità di assorbire le asperità che la 500 non conosce. Peccato che ai regimi autostradali siano tutte e due rumorose. 4 stelle e mezzo. Motore. Sono le conosciute e apprezzate unità propulsive torinesi. Un benzina gradevole e un turbo diesel generoso. Quest'ultimo però si fa notare per una rombosità accentuata agli alti giri. Benzina 3 stelle e mezzo, diesel 4 stelle e mezzo. Su strada, la Ka è divertente. Ha un retrotreno agilissimo e un avantreno che morde l'asfalto, il che obbliga a fare attenzione agli angoli di sterzo troppo accentuati e ai rilasci repentini del gas. ESP a 250 euro, benzina 4 stelle e mezzo, diesel 4 stelle. E non finiremo mai di dirvi quanto sia utile spendere in questo caso 250 euro per le SP. Chiudiamo due pregi e due difetti con Carlo Di Giusto. Ma come dicevo, il prezzo è sicuramente uno dei pregi di questa macchina, perché è vero che è un prezzo di partenza molto basso, però bisogna considerarsi di spendere intorno agli 11.000 euro. Per una macchina equipaggiata con il condizionatore d'aria e l'ESP, che secondo noi sono pressoché indispensabili. Parlando di difetti, la pagella lo diceva, sicuramente quello più fastidioso è la rombosità, questa rumorosità che emerge a 130 km orari quando si viaggia in autostrada. Le prestazioni consentono di viaggiare a 130 per lunghissimi tratti, perché la macchina li sopporta più che bene. C'è questo rumore di fondo un pochino fastidioso. Grazie davvero a Carlo Di Giusto di Quattro Ruote, a prestissimo Carlo. Grazie a te Roberto e un risentirci a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie a Carlo Di Giusto di Quattro Ruote per la prova della Ford Nuova Ka, che troverete naturalmente sul nostro sito radio24.it. Passiamo adesso a un argomento sempre molto interessante, assicurazioni, in questo periodo poi ancora di più. L'abbiamo già fatto un anno e mezzo fa, ci tenevo a rifarlo, faremo un giro questa volta di tutte le principali assicurazioni online e in seconda battuta, fra circa due mesi, tutte le assicurazioni tradizionali. Non come l'anno scorso, mettendo diciamo in competizione una con l'altra nella stessa puntata, ma dedicando 4 minuti in ogni puntata ad un'assicurazione diversa, per conoscerla, per capire la filosofia, non per marchettare inutilmente perché non ci interessa, ma per far capire davvero agli ascoltatori quale sia la loro migliore polizza, la miglior polizza per ogni automobilista. Poi abbiamo scelto i 3 profili esattamente identici a quelli di un anno e mezzo fa, in modo tale che capiremo anche le differenze con valutazioni e svalutazioni. Da prima a essere il nostro ospite, visto che è la neonata del gruppo AXA, è Quixa, e al telefono con noi c'è l'amministratore delegato, il dottor Giuseppe Dosi. Dottore, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Io direi come prima cosa di introdurre Quixa, quindi che cos'è Quixa, da quando è nata e che cosa fa esattamente? Guardi, Quixa è nata nel settembre del 2008, quindi siamo giovanissimi sul mercato. È una compagnia diretta di nuova generazione con una particolarità tutta sua. Di fatto noi diamo come servizio ai nostri clienti e ai nostri interlocutori il fatto di poter dialogare sempre con un consulente personale. Quindi il cliente non è solo di fronte, come dire, all'istituzione, ha qualcuno che si prende cura di lui. Questo sia per i clienti che telefonano, sia per i clienti che fanno i preventivi su internet e diventano quindi clienti online. Questo non discrimina e c'è sempre dietro la possibilità di avere un colloquio diretto con la compagnia di assicurazione. Decisamente, questo in alternativa naturalmente ai, li chiamo vecchi ma non lo sono affatto, anzi call center, ok? Cercando di capire poi quali sono le differenze e qual è il modo migliore per interagire con chi è dall'altra parte del telefono. Quattro ruote e dintorni. Allora, proseguiamo, prima puntata dell'inchiesta nuova sulle assicurazioni. Ogni puntata avrà ospite un'assicurazione online e in seconda battuta un'assicurazione tradizionale. Oggi c'è Quixa con noi, il dottor Dosi. Le chiedo, dottore, allora di spiegarci meglio il concetto di quello che io ho chiamato assistente, in realtà voi lo chiamate il consulente personale. Guardi, è molto semplice. Noi ci siamo sostanzialmente accorti che questo ha bisogno la gente, questo ha bisogno, oltre al prezzo, che ovviamente è un prerequisito per una compagnia diretta per stare sul mercato, effettivamente non basta il prezzo, il cliente ci chiede anche un servizio personalizzato, quindi tutti i nostri nuovi clienti vengono assegnati sostanzialmente a un consulente personale. Questo è un professionista giovane, molto motivato, che gestisce la sua cerchia di clienti, il suo portafoglio di clienti, e nel tempo mantiene questa relazione. Immagino per fare questo, dottore, abbiate dovuto, diciamo così, cambiare alcune delle regole, no, che governano i call center e gli assistenti, soprattutto in quelle società online. Come avete fatto? Avete preso uno staff, vi dividete i clienti a seconda poi del carico di lavoro? Assolutamente sì, di fatto è la prima telefonata che lei fa, ad esempio con il nostro numero verde, le risponde un consulente personale, lei salva il preventivo, da quel momento quel signore è il suo consulente personale di riferimento. Tutte le volte che lei chiamerà in futuro parlerà automaticamente sempre con lui. Voi fate parte di un gruppo grosso, avete tenuto conto del momento difficile che stanno vivendo gli automobilisti per proporre tariffe più basse possibili, o è impossibile per voi? No, più basse, beh, guardi, noi siamo usciti anche da un'inchiesta qualche mese fa come la compagnia meno cara sul mercato, con delle punte ad Aosta in cui è stata classificata la polizza meno cara in assoluto. È ovvio che ogni compagnia fa le proprie scelte imprenditoriali, certo, sui diversi profili, però devo dire che noi siamo effettivamente molto, molto competitivi su. Riteniamo che questo sia un altro dei bisogni fondamentali. Infatti, glielo chiedevo per questo. Vi mettiamo però subito alla prova, perché vi abbiamo fornito qualche giorno fa tre profili che io leggerò adesso. Lei mi darà per ogni profilo la spesa precisa della polizza annuale per quanto riguarda Quixa. Lo spiego anche agli ascoltatori, era stato fatto anche 2 anni fa per par condicio nei confronti di tutti. Noi abbiamo stilato insieme a Cosimo Muriani di Quattro Ruote 3 profili non certo casuali, andando a prendere Milano, Roma e Palermo come simbolo. Ovviamente non potevamo farlo su molte altre città, se no non finiremmo più, però sono tariffe ufficiali che trovate anche sul sito. Gli assicuratori si sono impegnati a rispondere correttamente in questo. Allora, dottor Dosi, profilo A. Abbiamo scelto un quarantenne, sesso maschile, che è residente a Milano, fa il libero professionista, ha in garage una BMW X5, è un diesel, un 3000 di cilindrata, catalitica, Eletta è il modello, 160 cavalli, per capirci, l'anno dell'auto è il 2005, proviene dalla classe numero 12 e ricordiamo la guidano tutti tranne che coloro che hanno meno di 26 anni. Il massimale che vi abbiamo chiesto è di 1,6 milioni di euro. Se si aggiudica, anzi se sceglie la polizza Quixa, quanto gli fate spendere in un anno? Gli facciamo spendere 656 euro. 656 euro. Io mi scrivo tutte queste cifre, naturalmente finiranno in un grande calderone sul sito della nostra radio, in modo tale che sarà chiaro per tutti. Profilo numero B, una donna sessantenne residente a Roma, fa la casalinga, ha una Panda 1100 del 2006 a benzina, Active, 40 cavalli, questo è il modello preciso, la classe di provenienza è molto più bassa perché è tanti anni che non ha incidenti ed è la quinta, la guidano tutti tranne che gli under 26, anche qui il massimale è 1,6. E qui il premio invece è più basso, sono 402 euro. E qui corrisponde naturalmente alla classe provenienza, pesa molto, lo sanno tutti coloro che fanno i preventivi online. 18enne per il terzo profilo, di Palermo, uomo, fa lo studente, la sua prima auto è una Ford Fiesta 1200 del 2008, 16 valvole, catalitica, 55 cavalli, è una Tecno Azure per i dettagli, proviene naturalmente dalla 14esima perché è la prima classe, poi qua ci mettiamo un asterisco perché ci dirà una cosa dottor Dosi, ma quanto gli fate spendere? Ma guardi, si parte da 787 euro se si può avvalere attraverso la legge Bersani di un attestato di rischio presente in famiglia di una prima classe, fino a un massimo di 1831 euro. E qui naturalmente sono prezzi allucinanti, ma era così anche 2 anni fa, me li aspettavo. Quindi 14esima classe, nel caso in famiglia nessuno avesse un'assicurazione già aperta, 1831, invece comunque la cifra migliore sarebbe 787 nel caso caso ci fosse una prima classe già in famiglia. Sapete che con la legge Bersani il neopatentato che entra in classe 14esima può usufruire del premio di polizza del papà o della mamma o della polizza già aperta in famiglia. Chiudiamo con il sito di Quix e il vostro numero verde. Allora è www.quixa.it 800 558 558. Dottor Dosi, grazie, l'appuntamento è per le prossime puntate, anche voi li ascolterete per sapere come si muovono, immagino, i competitor. A prestissimo e buona serata. Grazie, buonasera. Passiamo adesso ad un altro argomento che in realtà abbiamo già trattato sabato scorso, ma ci torneremo altri sabato, perché incentivi statali sono stati, lo sapete, erogati, varati ufficialmente venerdì scorso, ma sono ufficiali dal 7 febbraio, sebbene poi la pubblicazione sarà successiva. Eppure Maurizio Caprino del Sole 24 Ore ha già dei consigli, delle malizie, dei segreti da seguire per usufruire al meglio di questi incentivi. Gli abbiamo chiesto che cosa si sa ad oggi precisamente degli incentivi statali. Diciamo che intanto sono diventati assolutamente ufficiali, adesso si sa davvero tutto, si sa soprattutto che sono entrati in vigore dagli acquisti effettuati da sabato 7 gennaio, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia avvenuta dopo. Per tutti i contratti che voi avete firmato a partire da questa data avete diritto a 1.500 euro se la macchina che comprate rispetto i limiti dei vecchi incentivi, quindi non emette più di 140 grammi di CO2 al chilometro, che scendono a 130 per le diesel, e vi danno in cambio di questo, in cambio della rottamazione, vi danno 1.500 euro. Altra cosa importante è che, attenzione, stavolta si possono rottamare anche un bel po' di Euro 2, che era la cosa che chiedevano le case già dagli incentivi scorsi, il governo non gliel'aveva data, il governo dell'epoca. Adesso si possono rottamare tutte le Euro 2 immatricolate fino a tutto il 99, quindi resta fuori soltanto la coda delle Euro 2 immatricolate nel 2000, in sostanza. Ecco, questa è un'altra fetta importante di automobilisti. Fino a quando c'è tempo per usufruire degli incentivi, Maurizio? Fino a fine anno, con data di immatricolazione fino al 31 marzo 2010, quindi se scegliete un modello che andrà in difficoltà come tempi di consegna, stateci molto attenti e cautelatevi dal punto di vista contrattuale. Perché conta l'immatricolazione ufficiale? Assolutamente sì, altrimenti l'incentivo si perde. Fate almeno in modo che poi debba risarcirvelo il venditore, insomma, questo svantaggio. Certo, nel decreto si parla espressamente di GPL, metano e anche idrogeno. Ci illumini su queste categorie che hanno sempre più successo visti i costi ridotti. Visti i costi ridotti e anche gli incentivi che avevano già, perché non dimentichiamoci che è in vigore, questo è l'ultimo anno di vigenza di un pacchetto triennale di incentivi che porta nelle tasche di chi acquista auto a gas oppure elettrico oppure a idrogeno 1.500 euro senza necessità di rottamazione, e questi soldi diventano 2.000 euro se l'auto inquina meno, emette meno di 120 grammi chilometro di CO2. Queste misure sono state ulteriormente potenziate perché per chi compra metano, elettrico e idrogeno siamo arrivati a 3.500 euro. Sì. E il problema è che noi qui parliamo di auto elettriche ed auto idrogeno che sono in realtà inesistenti nei listini. Infatti. Ecco, teniamo conto che per elettrico in realtà si intende ibrido, quindi auto come le conosciamo sono sostanzialmente due, la Toyota Prius e la prossima Honda Insight, c'è anche una Civic, e mentre invece l'idrogeno non c'è, non lo commercializza in realtà neanche la BMW che da anni presenta modelli di questo tipo. È chiaro. Parliamo anche di omologazioni, Maurizio, perché noi siamo abituati agli Euro 4, qualcuno ha già sentito parlare ormai di Euro 5, che cosa succede con gli incentivi, a che cosa stare attenti? Ma allora, con gli incentivi non succede assolutamente nulla, perché Euro 4 ed Euro 5 sono assolutamente equiparati, quindi non è vero che questo sia un incentivo che va particolarmente bene per promuovere le auto molto ecologiche. Euro 4 ed Euro 5 hanno lo stesso trattamento, però è chiaro che da domani, cioè voi acquistate oggi, ma da domani rischiate sempre di incorrere nei blocchi del traffico, eccetera, eccetera, quindi in prospettiva alternativa è meglio avere una Euro 5 se vivete soprattutto in certe zone, e se cercate un'auto di queste, attenzione, perché anche i modelli nuovi che stanno arrivando sul mercato in queste settimane non sono tutti Euro 5, ce ne sono appunto di Euro 5, lo standard sarà obbligatorio soltanto al prossimo autunno, però ancora auto nuove e insospettabili tutto sommato sono ancora Euro 4, quindi se vi interessa l'Euro 5 fatevelo inserire nel contratto, in modo tale che se il concessionario poi vi vende un blef, anche lì avete diritto a ritirarvi dall'affare. Molto bene, io vorrei ringraziare Maurizio Caprino, ricordando Maurizio che martedì prossimo al Sole 24 Ore allora propone uno speciale su questi temi. Sì, abbiamo fatto appunto una carrellata su un po' su tutte le cose che ci siamo detti, abbiamo dato anche un po' di regole applicative basandoci sugli incentivi delle tornate precedenti, che sono molto simili come struttura a questi attuali, e quindi diciamo che il Ministero dell'Economia dovrebbe anche confermare tutte quelle regole minute applicative, insomma. Grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, l'appuntamento allora è in edicola per martedì prossimo con il supplemento che chiarirà ogni dubbio, e complimenti ai colleghi. Ruote e dintorni. Allora, vi dicevo, EcoDrive, Automoto Retro è il nostro avvocato lievore. Questi gli ultimi tre argomenti per chiudere la puntata di oggi. E allora partiamo subito con Fiat, a bordo delle quali si può trovare EcoDrive. Ne abbiamo già parlato un po' nei mesi scorsi, ma abbiamo avuto l'occasione di incontrare il responsabile dell'area digitale di Fiat. Ci ha parlato di Blue & Me, dentro il quale pacchetto sta EcoDrive. Per capire bene che cosa significhino tutte queste sigle, lo abbiamo chiesto con precisione a Luis Silimingras, responsabile dell'area digitale di Fiat. Che cos'è EcoDrive? EcoDrive è un sistema che abbiamo lanciato ad ottobre, Fiat. È praticamente un sistema che analizza, è un software che analizza come la gente guida e gli praticamente gli dà dei consigli su come possono guidare meglio. È un sistema molto semplice da utilizzare, se deve essere scaricato dal nostro sito, basta andare sul sito Fiat e lo si trova, si scarica praticamente sul computer, da lì si abilita una chiavetta USB che poi si porta in macchina, la chiavetta riprende i dati di guida, poi si riportano al computer e viene analizzato in modo molto esaustivo, ma è molto semplice anche per il cliente poi capire come ha guidato e come potrebbe migliorare la guida in modo di poter risparmiare, diciamo, soldi, che oggi penso che sia comunque una cosa importante, e anche emissioni di CO2 nell'atmosfera, che quindi è anche, diciamo, dal punto di vista ecologico piuttosto importante. Facciamo un esempio: da Milano devo andare a Roma, scarico da fiat.com gratuitamente, ti chiedo? Assolutamente. Questo sistema EcoDrive lo metto su una chiavetta, lo implemento sulla mia auto, automaticamente lui legge la chiavetta, vado da Milano a Roma. Quando torno Roma-Milano, mi faccio un altro viaggio di controllo, porto la chiavetta sul mio PC e cosa succede? Praticamente tu vedi come sono stati i viaggi che hai fatto, quindi da una parte hai il riassunto di tutto quello che sono stata la tua performance di viaggio, quindi quanto hai speso, quindi c'è anche tutta la parte, diciamo, telematica interessante, e poi viene valutato il modo del quanto sei stato efficiente tu a guidare. Quindi su quella base lì vengono dati, ti danno anche dei... La cosa migliore sarebbe che tu quando vai a Roma guardi poi quando sei a Roma come hai fatto, e così quando stai ritornando con tutti i consigli puoi capire come a una velocità costante o in tanti altri modi, diciamo, anche ci sono dei piccoli trucchi che i nostri ingegneri si sono impegnati, diciamo, a raccontare come puoi risparmiare, e quello che è praticamente quale sarà l'impatto, perché riusciamo anche a darti economicamente quanto ti porterai a casa facendo queste piccole cosette. Proprio un vero e proprio risparmio, perché conta i chilometri, i litri consumati, e quindi risparmiando una percentuale su quelli si arriva a capire quanto si risparmia, quanta anidride carbonica non si emette nell'atmosfera. Abbiamo detto che scaricarlo è gratuito, già 25.000 persone l'hanno scaricato in pochi mesi, quindi un buon successo per Fiat, ma per implementare sull'auto questo EcoDrive che cosa bisogna fare? Lo possono fare tutti con qualsiasi auto? Bisogna avere sicuramente una Fiat e deve avere il sistema Blue & Me. Me, che è il sistema che abbiamo sviluppato insieme a Microsoft, praticamente per, che ha una chiave, ha un, praticamente una porta USB che, su cui si può collegare, e poi ha tante altre cose, come per esempio permette attraverso la viva voce gestire i comandi dell'auto, permette collegarsi col telefonino praticamente attraverso Bluetooth, quindi ha tantissime altre cose, ma bisogna avere proprio una macchina con BlueMe per farlo, altrimenti non è proprio possibile collegarsi, diciamo, alle centraline, tutte quelle cose complesse che ci sono dentro la macchina, da cui si prendono i dati che poi vengono resi utili per il cliente. Quindi per usare EcoDrive bisogna installare sull'auto BlueMe. Ti chiedo intanto quanto costa installare sull'auto BlueMe e se si deve ordinare insieme all'autovettura o si può mettere anche aftermarket. Installarlo lo installiamo noi, no? Uno quando si ordina la macchina chiede che ci sia BlueMe, che fra l'altro è quasi di serie in molte delle nostre livelli di equipaggiamenti, sulla Punto, sulla Bravo, sulla 500 sicuramente sta avendo un successo enorme, perché sicuramente i clienti che vogliono la 500 vogliono anche poter utilizzare l'iPod o piuttosto che tante altre cose, che il telefono, quindi o un'opzione o livello di equipaggiamento viene offerto con le macchine più importanti di Fiat. Quindi facciamo un pensiero finale, un software per la prima volta insomma in collaborazione con Microsoft, l'hardware invece è studiato con Marelli, viene installato in un'auto, in quel momento l'auto è come se fosse connessa, è cablata in qualche modo, in questo caso non alla rete ma viene monitorata e modifica il comportamento di guida di una persona. Esattamente, sulla base di BlueMe uno poi aggiunge EcoDrive, riesci ad avere puoi capire come devi guidare in un modo più ecocompatibile, il cui è un pensiero carino, è un'idea carina che un software, quindi tecnologia, possa essere resa veramente utile affinché poi alla fine ci sia un risparmio vero, no? Quindi il cliente lo veda, poi si trasformi in qualcosa di tangibile. Chiudiamo con i prezzi. Allora, EcoDrive è gratuito, assolutamente. Bisogna avere BlueMe nella versione più semplice costa sui 300 euro sulla 500, sulla grande Punto, ma molto spesso viene offerto insieme a un pacchetto, quindi di livello di equipaggiamento. Basta prendersi un appunto che abbia un attimo più di equipaggiamento e viene offerto e viene compreso là dentro. Nel confronto con i nostri competitor sicuramente è un prezzo molto molto molto molto competitivo, quindi pensiamo che sia proprio a buon mercato, ecco. Allora, grazie a Luis Silimingras, responsabile dell'area digitale di Fiat, per questa intervista. E adesso un'avventura, un'iniziativa, un evento a sfondo motoristico che caratterizza i padiglioni, tre padiglioni del Lingotto di Torino. Oggi, ormai la giornata ovviamente è andata, ma soprattutto domani dalle 9 alle 19. Costa 8 euro entrare alla 27esima edizione di Auto Moto Retro. Per sapere tutti i segreti di Auto Moto Retro abbiamo in linea Gigi Pellissier. Caro Gigi, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Vi parlo dal padiglione 2, ormai le luci si sono spente, però ci sono ancora queste meravigliose quattro ruote che brillano in queste poche luci che ci sono ancora. Ma fantastico. Allora, invece di far brillare i nostri occhi, cosa che in radio è sempre difficile, fai brillare le nostre orecchie. Gigi, raccontaci che cosa potremo trovare domani. Le cose per le quali varrebbe la pena di venire a Torino sono sette meravigliose Bugatti. Quest'anno è il centenario della Fantastico. Bugatti, fondata da un milanese che però poi non ebbe grandi possibilità di espressione in Italia, andò in Francia dove divenne uno dei costruttori simbolo dell'industria francese. Qui abbiamo fatto venire tre pezzi meravigliosi dalla collezione Schlumpf, quella del grande museo di Mulhouse, più altre quattro altrettanto belle di collezionisti italiani che cortesemente le hanno messe a disposizione. Poi altri centenari, abbiamo il centenario della Della Ferrera. Della Ferrera è una marca di motociclette torinese abbastanza conosciuta tra le due guerre e poi però che ha finito la produzione negli anni intorno al 48. Ecco, pensiamo che però Tazio Nuvolari ha esordito a bordo di una Della Ferrera al circuito di Brescia. E non tutti lo sapevano questo. 36, molto interessante. E poi 50 anni della Mini. 50 50 anni della Mini. La Mini è l'antesignana di tutte le piccole, disegnata dal grande Issy Gonis, alla quale poi si sono ispirate tutte le auto che abbiamo guidato tutti noi, ecco, la trazione anteriore con grandissimo spazio interno, una macchina che ha segnato la storia dell'automobile, una delle poche che veramente ha segnato la storia dell'automobile. E poi, Gigi, da segnalare, se sei d'accordo, agli ascoltatori che amassero i giochi, anche tantissimi modelli giocattoli di auto, di cui molti sono collezionisti. Dunque, abbiamo una mostra impressionante di 1000 pezzi, di soprattutto c'è molto Bugatti e molto Ferrari, però poi ci sono anche modelli di aerei, di navi, di camion, giocattoli, non solo modelli ma anche giocattoli, perciò diciamo che anche i giovani visitatori avranno da farsi brillare gli occhi, come dici tu. Chiudiamo con la Bultaco, un altro brand importante, se non sbaglio ricorre il 50° anche di questa marca. La casa spagnola, molto famosa nell'ambito del trial e del fuoristrada, anche lei purtroppo la produzione è finita, però lasciami ricordare ancora una gloria nazionale, la A112, che fantastico. 40 anni. La A112 è stata la mamma della maggior parte dei rallisti italiani, a cominciare da Michi Biasion, a cominciare da tanti altri. Chi di noi non ha avuto in famiglia una 500, una 112, alzi veramente la mano. Gigi, dobbiamo chiudere, l'appuntamento allora è domani dalle 9 alle 19 all'Automoto Retro al Lingotto di Torino. Andate perché è veramente una manifestazione interessante. Grazie Gigi Pellissier, a prestissimo. Grazie a te. Chiudiamo adesso la trasmissione tornando a un altro argomento forte, l'angolo del nostro avvocato. Avete la possibilità di contattare un avvocato, evidentemente per motivi legati alle strade, alle autostrade, assicurazioni, a incidenti, attraverso la nostra mail 4, scritto in numeri, ruote@radio24.it, e noi selezioneremo naturalmente le domande che possono poi interessare a tutti, le gireremo all'avvocato Erika Lievore di Milano. Avvocato, intanto buonasera, bentornato. Buonasera a lei, ascoltatori. Questa volta abbiamo scelto di comune accordo una mail che ci proveniva da Giuseppe di Ancona e dice che ha problemi. Giuseppe, devo dire, è una cosa che ricorre spesso nel far allacciare le cinture di sicurezza a chi sale in macchina con lui, e poi chiede se è vero che sia obbligatorio allacciarle anche dietro. Come sempre facciamo con lei, imbracciamo il codice della strada e ci racconta qual è la norma che prevede delle istruzioni per la cintura di sicurezza, avvocato. Diciamo che soprattutto l'articolo 172, che espressamente prevede come il conducente ed i passeggeri di un veicolo abbiano l'obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Sì. Quindi espressamente e tutti coloro che salgono a bordo di un veicolo in marcia. Per quello che riguarda invece i bambini, coloro che hanno un bambino di statura inferiore a 1,50 m devono assicurarsi che il bambino sia posizionato sul sedile con quei seggiolini che adeguati al loro peso ed omologati secondo quelle che sono le norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siano adeguatamente posizionati sul sedile. Coloro che invece intendono trasportare il bimbo sul seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro sul sedile del passeggero, quindi a fianco al guidatore, devono fare attenzione a disattivare necessariamente l'airbag frontale. Queste sono quindi le condizioni necessarie e obbligatorie previste come condizioni di sicurezza e cintura di sicurezza a bordo. Dall'articolo 172, e quindi per spiegare anche a Giuseppe la risposta dell'avvocato, anche dietro è obbligatorio, vi ricordate il movimento MAC di quattro ruote a cui abbiamo aderito, movimento allaccia cinture anche dietro, mi raccomando, e anche perché in caso di incidente che procuri un danno al trasportato c'è una corresponsabilità, vero? Esattamente, proprio per il fatto che il conducente deve esigere che il passeggero a fianco e quello dietro indossi in ogni caso la cintura ed eventualmente rifiutare di trasportare o non iniziare addirittura la marcia se così non avviene, in caso di incidente che procuri un evento dannoso alla persona trasportata e questo evento dannoso sì, è dovuto proprio alla mancanza della cintura, interverrà un concorso di colpa anche del conducente con il trasportato. Esatto, quindi bene, bene. Il cliente è responsabile. Ci occuperemo in un'altra sede di chi è esente dall'uso delle cinture. Naturalmente chiudiamo brevissimamente con le sanzioni, avvocato. Per coloro che non usano la cintura di sicurezza partono da 70 euro a 285 euro per qualsiasi soggetto che non usi la cintura, quindi okay. Non solo il responsabile conducente ma anche i passeggeri. Il conducente che nell'arco dei 2 anni viola per 2 volte questa norma, all'ultima infrazione si aggiungerà anche una sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. E questo credo che se lo aspettassero in pochi. Grazie all'avvocato Enrico Allievore, grazie, a presto avvocato. Grazie a lei, buonasera. Articolo 172, codice della strada, andate a ripassarlo, è molto importante, andiamoci tutti anzi a ripassarlo. Allora qui termina la nostra puntata, che torna però fresca sabato prossimo ore 21 insieme agli amici di Quattro Ruote. Filippo Auregge è rimasto in regia, grazie Filippo, e Roberto Rasia vi ha parlato al microfono. Grazie, ci risentiamo fra una settimana, buon weekend e soprattutto buona guida.